Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Non è retorico anche perché ho un testimone presente di una presentazione fatta a Roma in cui c'eravamo io il moderatore e una nostra amica che è arrivata un po' in ritardo. E quindi, diciamo, dal mio punto di vista, Roma è sempre una piazza difficilissima e quindi oggi sono straordinariamente contento, anche perché appunto amiche dicevano: ah, ma a San Lorenzo c'è la cosa della Palestina, vabbè, priorità assoluta, eccetera, e quindi vi ringrazio di essere qui. Iniziamo subito con una lettura e da qualche tempo a questa parte, tutte le volte che prendo la parola in pubblico, comincio con un breve passaggio di un testo di Mahmoud Darwish, un testo che è stato tradotto in francese, Presente-assente. Noi che non esistiamo sulla terra promessa, siamo diventati lo spettro del trucidato che perseguita il suo assassino nel sonno, nella veglia e tra le due. Lo inquieta, lo angoscia, gli impedisce di dormire, lo fa gridare. Non sono ancora morti? No. Perché lo spettro ha raggiunto l'età dello svezzamento, poi l'età adulta, l'età della resistenza e l'età del ritorno. Gli aerei perseguitano lo spettro nell'aria, i carri armati sulla terra, i sottomarini nel mare. Lui cresce, cresce. Occupa la coscienza dell'assassino e lo rende pazzo. Invece da Prati. Prato numero 18, olio su tela. Il prato non sorprende, ma i suoi confini sono di difficile determinazione. Puoi cominciare da un'immagine, una delle immagini interne, quelle che si presuma tu custodisca nella testa. Un buon residuo di tanti ricordi, ad esempio, attraversato da sovrapposizioni, angoli o sfondi, che appartengono invece a sogni. Ma forse hai solo sogni di praterie o di sabbia o di rocce con solo qualche cespuglio spinoso. Forse hai pochissimi ricordi, solo quelli che non hai potuto cancellare e non sedimentano immagini di prato, ma di pavimenti, piastrelle o marmo o legno. Pavimenti con confini precisi, muri intorno alle porte, solitamente chiuse. Servirebbe un'immagine prima che ad avvicinarlo sia la parola. Oppure una fotografia di cui sia facile amputare la sagoma o l'ambiente umani per conservare una striscia breve di sola erba, di erba su erba, un cominciamento di prato. A mediare ancora un personaggio. Stavolta una donna, se l'altro, il precedente era uomo, che ti accompagna ancora a fissare la stessa stampa tenuta contro la parete da due puntine di metallo. È una riproduzione dell'Annunciazione di Beato Angelico. Lei dice che non guarda mai le due figure umane, l'angelo e la vergine. Dice che non le ha ancora mai guardate, e neppure l'interno della loggia. Dice ogni volta, tenendoti per il polso, che solo l'erba le interessa. Questo lembo di prato, vedi? Ti ripete. come si infila sotto la palizzata, quante specie di fiori ed erbe tu ci vedi, e pretende una risposta che tu non sai darle, che non vuoi darle e che lei comunque non vorrebbe sentire. È del suo stupore che si tratta, non dell'enumerazione precisa ed erudita delle specie erbose. Il libro che presentiamo stasera, avete capito, è Prati, e anche perché se siete qui è perché siete stati tempestati probabilmente di messaggi da qualcuno della banda TIC, la casa editrice TIC, il luogo dove siamo, ha pubblicato nella collana Ultra Chapbooks, diretta da Michele Zaffarano, questo libro, che ha una storia peraltro molto interessante, perché nasce come sequenza di testi pubblicati inizialmente dalla Camera Verde, in un librettino che così si intitolava, Prati, Pelouse, perché c'era anche la traduzione in francese, e successivamente prende il suo posto in uno dei libri che poi trovate anch'esso qui nella libreria TIC, che è Prosa in Prosa, dove venivano raccolti testi di Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Michele Zaffarano, Andrea Raos e di chi vi parla. E questo libro, Prosa in Prosa, nel 2009 è uscito nella collana Fuori Formato delle Lettere, ha avuto una fortuna che forse nessuno di noi si aspettava, e, diciamo, dando un po' un contributo, forse non secondario, a quel complesso, a quell'ambito di scritture genericamente definibili scritture di ricerca, che appunto in questi ultimi anni hanno avuto qualcosa forse da dire sulla letteratura e sui rapporti tra la letteratura italiana e gli ambiti francofono e anglofono. E a proposito di questo, vi segnalo anche che al piano di sopra, quindi sempre qui da TIC, sono disponibili delle copie della Scuola delle Cose, che è una rivista che in questo numero si occupa anche di Andrea Inglese e di altri materiali. È una rivista gratuita, quindi se volete la potete prendere, ce n'ho anche qualche copia qui, quindi anche senza salire su è possibile prenderla, e che appunto dà un po' un quadro della situazione della ricerca letteraria in Italia a partire grosso modo appunto dagli anni 2003-2006 fino a oggi. E in questo contesto la collana Ultra Chapbook è particolarmente importante e centrale, prende tra l'altro il nome Chapbook, Book Chapter, cioè sostanzialmente un piccolo librettino. Il Chapbook è una sorta di capitolo, è un po' è il nome che gli inglesi, gli americani, gli anglofoni, diciamo, davano a quegli estratti di testi più lunghi che di volta in volta venivano pubblicati e nelle riviste, per esempio, e che poi avrebbero costituito un libro intero. La collana Chapbook nasce grazie sempre a Michele Zaffarano nel 2005 a Milano, e poi viene portata avanti qui a Roma da diversi anni ormai grazie appunto alla casa editrice TIC, precedentemente appunto a Milano era la casa editrice Arcipelago. Gli Ultra Chapbook sono dei Chapbook un po' più grossi, e come si vede questo è uno degli ultimi nati, e ha come caratteristica quello di essere quello che ultimamente è venuto in testa a molti di chiamare iconotesto, perché intermessi ai prati testuali ci sono dei prati immagini, immaginati, fotografati, e soltanto che nessuno di questi è in qualche maniera contestualizzato, cioè sono tutti prati immersivi, cioè sono delle fotografie, evidentemente dei riquadri presi proprio nell'impossibilità di definirne i margini, mentre in realtà nei testi della raccolta in verità sono proprio i margini ad avere centralità. Forse proprio il primo testo della raccolta, che si intitola Prato numero 3, Punta Secca, dà un po' alcuni elementi per capire tutto il libro, ma in realtà è tutto il libro che è tramato di idee, intenzioni, micro suggerimenti più che dichiarazioni di poetica, anche perché questo è un libro di cui si potrebbe dire che sicuramente la non assertività, cioè la non imposizione al lettore di tutta una serie di parametri che servirebbero a leggerne le complessità, è uno, forse uno dei capisaldi. Inizia così il Prato numero 3, Punta Secca. Succede prima o poi di avvicinarsi al prato, non direttamente come se uno ci camminasse sopra o in mezzo, ma per una mediazione di cui è responsabile una persona, un individuo incontrato per caso. E poi il testo continua. Quindi, ecco, si parla in tutti i testi di questo libro, che sono, ripeto, delle prose e delle prose in prosa, dei riquadri in qualche maniera anch'essi, diciamo, colti in medias res, come se appunto non ci fossero margini, dove però sempre di margini si parla di avvicinamenti alla storia, alla vicenda di cui si parla. C'è qualcosa di narrativo e qualcosa che sfugge alla possibilità di narrazione. Nello stesso tempo però è un libro pieno di cose, di oggetti, di materiali, di persone, di personaggi, spessissimo essi stessi marginali. Quindi parliamo di personaggi che a volte hanno una funzione, la parola è comparsa anche nel Prato numero 18 che Andrea ha letto, che funzionano da mediatori, operano una mediazione e quindi non si costituiscono in realtà come veri e propri personaggi a tutto tondo che dovrebbero in qualche maniera agire una serie di eventi per portarci attraverso una peripezia, uno scioglimento, ma in verità attraversano il testo rimanendo all'interno del testo, rimanendo in qualche maniera mediatori di qualcosa che però sembra non avere né un inizio né una fine. Questo paradosso del parlare dei margini, del parlare di una scrittura marginale, perché poi in fondo la prosa o la prosa in prosa di questi libri non è sicuramente una scrittura mainstream, non è una scrittura che possiamo trovare sugli scaffali dei premi paludati contemporanei, però proprio questo tipo di scrittura in realtà riesce attraverso questo paradosso di parlare del margine, dal margine, ma nello stesso tempo senza dare il contesto che questi margini ci permetterebbe di delineare, forse riesce a dare più di molte altre l'idea di che cos'è la sperimentazione, di che cos'è la ricerca e di che cos'è anche la possibilità di descrivere un mondo come quello contemporaneo, così complesso, così pieno di contraddizioni, di difficoltà e di dolore, senza con questo in qualche maniera, diciamo, appropriarsi e far appropriare il lettore della lettura del contesto che l'autore dà. L'autore lascia molto libero il lettore di muoversi all'interno di questi, appunto, prati così, così paradossali. C'è il Prato numero 18, per esempio, ecco, appunto, è quello che hai letto tu, qui me l'ero annotato. Effettivamente si parla decisamente di confini di difficile determinazione, proprio l'espressione che usa a un certo punto l'autore. Si parla di cominciamenti di Prato, come se si stesse sempre all'inizio di qualcosa, ma mai all'interno della cosa. C'è per esempio un incipit del Prato numero 23, per chi dovesse avere il libro. Tra parentesi faccio notare che Prato è assonante con brano ed è un anagramma di parto, di porta, che dice così: alcune cose non vanno al loro posto, non tutte le cose sono chiare, ci sono zone d'ombra, le difficoltà permangono. Ecco questo verbo, questo quasi cliché, no? Del permanere delle difficoltà, che noi a volte sentiamo così nei discorsi un po', appunto, buffi della comunicazione generalista, viene qui in realtà autosorridendo su questa espressione stessa, sta descrivendo in qualche maniera quello che in verità è indescrivibile. Ci sono alcune cose che vanno al loro posto, ma non tutte le cose sono chiare. Queste vicende che ci vengono descritte, questi personaggi che compaiono all'interno di questi prati stessi che inizialmente quasi non compaiono. La cosa bella di questo libro è che alcuni dei prati compaiono soltanto alla fine, si inizia con delle storie che non c'entrano assolutamente niente con i prati e poi improvvisamente il prato fa la sua apparizione. Quindi dal margine di un'altra storia arriva questa entità onnipresente. Tra l'altro le numerazioni sono particolarmente interessanti, nel senso che l'ultimo prato è il prato 255. Quindi dobbiamo immaginare che Andrea Inglese abbia attraversato 255 prati o che stia giocando anche lui con la numerazione, come spesso fa tanta altra scrittura di ricerca. Il prato però è anche una concentrazione di forze, così dice un altro testo. E invece, a proposito di nuovo di dispersione, di difficoltà di dire, di difficoltà di, come dire, chiarire anche il ruolo di alcuni personaggi e giocare con i loro margini, con i margini dei personaggi, a un certo punto compare in uno dei prati conclusivi un'entità strana che si chiama il cane bastone. I cani bastone che vedevo erano inintellegibili, i loro gesti si dissociavano a tal punto, le loro espressioni sonore e ritmiche erano così inaspettate che mancava la possibilità di racchiuderli in una sorta di sagoma, di forma serenamente percepibile. Ora, qui chiaramente ci troviamo di fronte quasi a una descrizione di personaggi sottoposti a glitch, a disturbo, a indisponibilità ad essere effettivamente circoscritti da una descrivibilità. E tutto questo in realtà non cozza, e dobbiamo anche chiarirci su questo punto, tutto quello che Andrea Inglese ha fatto anche nel tempo, anche attraverso altri libri, in termini di critica alla rappresentazione, è una critica alla rappresentazione comune, normale, mainstream di un certo tipo di letteratura, ma in realtà anche questi testi, proprio mettendo in critica sotto lo sguardo della critica la banalità, se vogliamo, la facilità della descrivibilità così, insomma, piatta della normale letteratura di cassetta, ecco, facendo esattamente questo, in realtà sta operando in senso anche strettamente e fortemente politico, e non è un caso la lettura dei versi di Darwish all'inizio del nostro incontro. Ora, c'è anche molto altro da dire, per esempio, sull'idea della scrittura del Prato come scrittura figurale, di immagini. C'è proprio nel primo testo l'idea di un personaggio, che appunto è il mediatore che ci avvicina all'idea di Prato in questo caso, che è un pittore che sostanzialmente non fa altro che dipingere prati, e li dipinge attraverso graffi, schizzi rapidi, e il personaggio che dice io, e poi vedremo anche in un altro prato è descritto in che senso e come si usa anche quel pronome, diciamo così, protagonista della vexata questia dell'io e del soggetto, ecco, il personaggio che dice io si trova di fronte a questi prati, circondato, spaesato all'interno di una quantità di riproduzioni di prati. Quindi in realtà il primo prato che noi abbiamo è un prato in verità disegnato, quindi anche lì c'è una mediazione. E è questo il prato, in qualche maniera, che è, come viene detto in un altro brano, una sorta di concentrazione di forze. In questo, secondo me, c'è anche una coscienza abbastanza netta di Andrea Inglese nella sua cultura visiva, ma su questo poi magari ci possiamo interrogare insieme. Io adesso forse ti chiederei di dire, se vuoi, qualcosa sulle mie verbigerazioni, oppure di leggere un altro brano o alcuni brani, per darci un'idea della complessità del testo. Sì, grazie Marco. Sì, io continuerei a leggere, anche perché le notazioni di Marco sono molto ricche e già, come dire, esigono di essere elaborate, e le affianco con una lettura sempre di Prati, in modo che possano interloquire o interferire in modo virtuoso. Prato 166, sì, allora, pagina 70, no, non è un segreto, Prato 166, con monologo e barlumi di coscienza a costi ridotti. Non è che io parli in prima persona perché abbia qualcosa di intimo da dire che un altro di me non potrebbe dire se solamente mi vedesse per buona parte della giornata, mentre vivo quello che vivo, faccio le cose della mia vita, dico le poche frasi che le danno senso. Parlo alla prima persona in quanto chi è molto povero come me, un intermediario, ossia la terza persona, non può permettersela. Non sembra sul momento, ma considerando la durata intera del discorso, i malintesi e le ripetizioni e qualche amnesia da colmare, i costi lievitano. ed è in ogni caso quanto basta, quello che ci chiedono, un po' di autenticità a gente come noi. Loro stanno raccogliendo le informazioni, le nostre. Ognuno dà in ragione delle informazioni che ha e dei mezzi di diffusione che possiede. Io, che ne ho poche di informazioni e nessun mezzo, le do così, con biro e foglio. Noi che siamo autentici non possiamo depositare ritratti cinematografici, monumenti equestri, cofanetti audio dei nostri pianti o borbottii. Abbiamo la zona bassa dello schedario che ci è riservata, con diverse righe tratteggiate e il pronome umile, ma altrettanto legittimo sul piano burocratico, della prima persona. Non dico sia dignitoso, di grande interesse, ma così posso dire anche male, direttamente, usando quella coscienza residua che mi resta, e non ho dovere d'esattezza o stile di dominio cronachistico sui fatti. Non sono un testimone oculare, ma qualcuno semmai che si confessa, già ben implicato, immerso nella colpa. Ho fatto quello che dovevo fare, sono andato dove mi si chiedeva e ho lavorato. Più che altro questo. A volte non so neppure per quale grazia ho fatto l'amore, messo incinta una donna, avuto dei figli. E intanto andavo in certi posti ben suggeriti da altri e lì, chiuso dentro, lavoravo. Potrei anche parlare di tutto il lavoro che ho fatto senza quasi rendermene conto, io, da solo, negli anni della mia vita, da quando ho cominciato a lavorare fino a oggi. Se mettessi in fila, come indirizzati a un unico progetto, tutti i miei gesti lavorativi, un acquedotto romano o una cattedrale gotica, probabilmente ne sarebbero il risultato. Io da solo. Magari esagero. A volte non so per quale grazia, ho però smesso di lavorare. E allora andavo verso un posto pieno d'erba, dove a lavorare al massimo fossero i castori, gli scoiattoli o le altre bestie del bosco. Dico castori per amore d'avventure pittoresco. Nei prati è più verosimile che vi siano soprattutto coleotteri e anelli di ogni risma. Così io andavo verso il bosco, possibilmente fermandomi un po' prima, ben lontano dalla città, ma vicinissimo al bosco. Non del tutto dentro il bosco, perché è scomodissimo sdraiarsi. Pochi passi prima, invece, è perfetto, dove c'è il semplice prato. Sembra fatto quel prato per chi ha smesso di lavorare. Allora mi ci mettevo, tirandomi dietro mia moglie e i miei figli, e mi concentravo tutto sul non fare nulla. Non volevo finire in quello stato bastardo che è l'ozio, dove uno fa qualcosa, si affanna a leggere o a suonare lo zufolo, senza neppure essere remunerato. Se non si lavora, si deve non lavorare con coerenza e fare quindi nulla. E per raggiungere il successo in tale operazione, trovarsi il prato adiacente al bosco è indispensabile. Poi minacciare di sberle tutta la famiglia se mai a qualcuno venisse la voglia di andare a raccogliere funghi. Tutti sdraiati come i morti si deve stare, a mio parere, quando non si lavora. E guai ad addormentarsi, che poi uno non se ne rende più conto quanto è stato bello il momento del far niente. Sì, qui abbiamo un po' tutto. Abbiamo appunto il discorso dell'io che uno deve usare per forza perché non si può permettere la terza persona e quindi c'è anche il desiderio di mettere in scherzo, in gioco, questa appunto questione antica in fondo per la ricerca letteraria. Poi c'è il discorso del margine, qui arriviamo pian piano, come si diceva nel primo testo, ci avviciniamo al prato finché arriviamo in realtà a quello che questo prato è di fatto, che in realtà è un bordo, è un margine, non è pieno bosco e non è più città. E quindi, e qui però bisogna immergersi nel nulla. In questo nulla che però è pieno, è gravido di oggetti, di entità, e se è in qualche maniera il nulla nominabile anche come uno degli argomenti del libro, è sicuramente uno zero, un vuoto che, se vuoto di attività, è pieno però di oggetti, di questo è uno dei libri, secondo me, pubblicati dalla collana Ultra Chapbooks, lessicalmente più esplosivo, perché è veramente pieno di materiali, un po' come appunto le fotografie che vediamo essere abitate e fittissime di personaggi vegetali, qui principalmente, e alcune di queste immagini tra l'altro sembrano quasi dei tracciati di particelle subatomiche che si scontrano e producono delle reazioni. Ora, un'altra degli elementi che mi è sembrato di cogliere, poi su questo appunto domando ad Andrea se la sente di leggere magari uno di questi due testi, dove in particolare c'è un riferimento, diciamo, un'aria di famiglia, ecco, diciamo così, che si sente, che si percepisce, ha un modo di incedere del discorso che mi ricorda un autore a entrambi molto caro, che è stato Giuliano Mesa. Sicuramente chi legge il libro troverà elementi tarcosiani, elementi becchettiani, elementi kafkiani, alcune addirittura quasi delle criptocitazioni, delle linee che corrono sotto, anche a volte non troppo sotto, la superficie del testo, però in alcuni casi si percepisce questa eco affettuosa, quasi come una sorta di omaggio. E a me piace, mi è sembrato, a meno che io non abbia avuto un'allucinazione, è sempre possibile, di trovarlo in particolare in due testi, quello a pagina 20, che è il prato numero 55, vediamo un po', sì, esatto, rotoli di feltro e tubi al neon, che anche nel suo appunto riferimento d'immagine dà l'idea di una così, di una costellazione di artisti contemporanei che con questi materiali hanno lavorato, che era cara sicuramente a Giuliano. E invece il prato numero 142, che è a pagina 49, quindi non molto distante, che invece, adesso lo vado a prendere, si intitola Alano, acqua piovana e resine. Adesso non so quale dei due ti piace leggere. Sì, magari leggo questo Alano. Dai. Allora, sul discorso di Giuliano, capisco in modo, quando tu hai parlato di questa cosa, ho subito pensato a questo testo Alano, perché in effetti, diciamo, uno dei testi, anzi una serie di testi che Giuliano Mesa, questo autore che per noi è stato molto importante, più grande di noi, però come un fratello maggiore, che veniva dalla storia, il suo primo libro, lui l'ha fatto per Spatola, ecco, quindi per dirvi dall'inizio del percorso di Giuliano. E in un libro che, se non sbaglio, Marco, se mai correggimi, si intitolava I loro scritti, no, I loro scritti, c'erano degli straordinari testi che si chiamavano Macchine, che erano degli agglomerati proprio con una versificazione estremamente lunga di oggetti, quasi delle sorte di trionfi rinascimentali, ma del disastro in qualche modo, delle rovine. Allora, da questo punto di vista qui c'è Giuliano nella cosa che vi leggo, però c'è anche una dimensione fumettistica in qualche modo, che va sempre un po' nell'ottica della non assertività, di cui poi magari proviamo anche a dire due cose ulteriormente, perché credo che sia un tema che anche alcune persone che sono qui interessa come almeno nuova categoria critica. Comunque, prato 142, Alano, acqua piovana e resine. Tutto rumore, tutta ruggine, tutte le sirene. Come cazzo scavano e scavano e scavano, senza fermarsi, soprattutto di notte, le benne e quelle colonne alte che gli sfiatano le loro pompe, il tonfo dei magli, il ratatatà delle trivelle, tutto fango e ruggine, solchi dentro una poltiglia ocra. Come cazzo scavano verso quel nero? Non si vedono neppure mai nessuno in giro, negli abitacoli, alle leve, ma il frastuono, tutto il rumore, come tremano, tutto carcasse di carrozzerie, cingolati, ma anche più deserto, in un chilometro più niente. E il peggiore di tutti, piove da schifo, in una notte continua, la gente in giro è morta, la vedi nei mucchi di stracci, pochissimi invece vivi, con le palette di ferro, che pena, come cazzo scavano anche loro piccoli solchi per gettarci dentro le biglie e spingerle avanti, puntando l'indice sul pollice, tirando, come cazzo giocano, dementi, con le mani congelate, incrostate, avvolte nelle bende, mentre a 2 metri allargano il cratere, piove ovunque, ben dentro negli occhi, in bocca petrolio, sulla pelle tutto petrolio raggrumato, sulla faccia o carbone, o semplicemente tutta cenere. Come cazzo è possibile? Qui è il peggiore, il prato peggiore. Tra questo petrolio a chiazze e questa palude di fango c'è spazio anche per il ghiaccio, talmente lercio nelle grosse lastre, tutto fermo, le larve, le parti umane, le mandibole feline, le radici, qualche meccanismo tutto trasparente, tutto morto nel ghiaccio, e l'erba. C'è persino l'erba nel peggiore dei prati, piccoli ciuffi giallastri, creste di fieno, qualche fiore guasto attraverso la rete metallica, come una garza ampia, stesa ovunque, anche con gli strappi, dove scavano, con le buche fatte bene, taglienti sui bordi e le teste, con le cuffie di cuoio graffiate, lacere, ma ancora teste che sbucano, ancora un minimo copricapo. Guardano in alto, con i pochissimi denti, una pausa di scavo. Cazzo scavano, maledetti, ammalati dalla ruggine, anche sulla pelle, tutto rosso marrone, screpolato che si sfoglia, tutto marcio, tutta la pioggia, il rimbombo dei trafori, i martelli, negli ultimi minuti, negli ultimi muri, e poi verso il basso, nel cratere, sempre perfezionando, ma quasi nessuno in giro. Un papavero fradicio, un guanto tranciato in due, qualche testa affiorante, un ammasso di stracci e quasi nessuno. Tutto fermo, tutto grigio, tutto da scavare. Ghiaccio a lastre, petrolio a pozze, onda di fango e ruggine, tutta pioggia negli occhi, un unico cane. Un cane gotico, tremendo, pieno di incubi, disperato. L'unico essere vivente distinguibile col pelo lucidissimo e i muscoli contratti. Le fauci schiuse, l'alito intorno alla testa, un vapore visibile da lontano come un'aureola. Il custode del prato, del peggiore dei prati, del prato ormai irriconoscibile, in via di cancellazione, il cane gotico a tenere fermo in tutto l'incubo dei ricordi di cane, di cacce e persecuzioni, di sevizie, in tutto il buio degli intestini ingurgitati e le proprie feci negli intestini e il sangue marcio tutto che gli fecero bere e divorare e lo resero ultimo, vivo per scherno, con l'incubo, con il ricordo della propria più vergognosa sopravvivenza, essendo in vita perché già autodivorato, non tutto, non del tutto, morto, scuoiato, il cane gotico tiene nella morsa della sua vergogna, del suo ultimo trauma, nella trafittura del cranio, nei nervi che stanno cedendo e la vista portata via e l'udito folle che amplifica e prolunga nell'unico interminabile rombo, il cane gotico veglia sul prato. Mantiene nei suoi muscoli ancora contratti, irrorati di sangue nero, l'immagine del prato. Il cane gotico dentro l'immenso cratere che si espande, con ai bordi ulteriori crolli e decessi e ultime teste che ricadono, macchine ferme, scavatori sepolti, in piedi il cane gotico trattiene nei rari respiri l'odore dell'erba e della terra, prima di tutta la ruggine, di tutto il petrolio, come se ancora ci fosse nella rete metallica lacerata, con la terra nera e tutti i veleni, una zolla intatta, radiosa, su cui strisciare il muso, da cui aspirare un vapore ancora fertile del polline. Alcune sono molto più cosi di queste. Questa era particolarmente cattiva. È il peggiore dei prati? È il peggiore dei prati. Detto due volte, appunto, ecco. E nei ritmi battenti, nelle immagini estremamente tagliate, espressionisticamente forti, appunto, riconosciamo alcuni tratti. Non tanto forse del lavoro di Giuliano Mesa, quanto del lavoro di Mesa è diciamo omaggiato o comunque apprezzato e ricodificato da un discorso diverso come quello di questo libro Prati. E altri protagonisti sicuramente ci sono. Io appunto in un Prato che non è necessario leggere, però insomma, oppure se lo vuoi leggere, cioè, sicuramente mi fa molto piacere. Ci sono delle figure altrettanto forse diciamo stagliate, anche se con dei riferimenti che, ripeto, anche qui magari allucinatori miei, però possono essere individuate nella tradizione letteraria occidentale. Appunto, io facevo prima il nome di Beckett, e c'è questa figura del padre fermo alla finestra, uno dei prati più densi, che è il Prato 128, che si intitola Vinile Rullante Gran Cassa, che trovate a partire da pagina 41, ma io soprattutto, ecco, pensavo a questa figura di padre che tossisce e che in qualche maniera obbliga il principio di piacere dell'io parlante a divergere verso il dovere di salvare questo padre. Lo trovavo disegnato così. Ecco, incluso mio padre che tossisce su di una sedia di fronte a una finestra aperta che lo ucciderà. E questa figura di questo presa di spalle vicino alla finestra, che è ostinatamente ferma, ostinatamente bloccata da se stessa, in attesa semplicemente della morte o di una salvezza che implicitamente, appunto, calca sulle spalle del figlio, è una figura quanto mai inquietante. E in questo senso, almeno in questo testo, il principio di piacere però prevale, o sembrerebbe in qualche maniera prefigurarsi e prendere diciamo l'aspetto proprio del prato, perché improvvisamente il figlio, che deve semplicemente attraversare un altro ambiente per andare a salvare, tra virgolette, il padre, si ritrova in realtà, come nella classica, diciamo, è una dei meccanismi del sogno, si trova a camminare su un prato, e quindi improvvisamente compare questo prato, che gli dà una tale gioia e felicità nella sua natura di diversione rispetto appunto al principio di realtà, da fargli completamente scomparire dall'orizzonte la necessità della salvezza di questo padre. Quindi non si tratta di un'uccisione del padre mediata proprio dall'immagine del prato. La questione dell'io l'abbiamo già in qualche maniera attraversata, e a questo punto io forse chiederei ad Andrea di dirci, perché io chiaramente ho dato alcune interpretazioni, ho parlato appunto del margine, del bordo, dell'imprecisione, del glitch, della figura incompleta oppure eccezionalmente stagliata, dove però appunto diciamo binariamente c'è questa idea di sogno che si sposta e che corrisponde forse in qualche maniera nella sua improvvisa comparsa al cambio di scena in un normale meccanismo cinematografico. Il Novecento, bene o male, è un secolo in qualche maniera lungo, e il Novecento, come diceva Sanguinetti, è il secolo del montaggio, e Andrea appunto ha montato la scena del prato in questo modo. Ecco, dette tutte queste cose, però forse è interessante anche sentire dalla voce dell'autore che cosa sono i prati, come in qualche maniera è nata l'idea del prato, e se i prati sono anche questi riquadri testuali, queste prose prati, che appunto costituiscono addirittura una sequenza che qui sembra esemplata in un numero limitato, ma che tendenzialmente potrebbe estendersi all'infinito, come ripeto l'ultimo prato è 255 addirittura. Sì, ma nella scrittura sia poetica che non solo, una delle cose che a me affascina, soprattutto nelle scritture novecentesche, poi ulteriormente fino a noi, sono, diciamo, quel tipo di scritture che si trovano in qualche modo a metà strada tra il genere letterario e invece che quindi, come il termine dice, riguarda una sorta di modello generico dentro cui possiamo immaginarsi una quantità di singoli testi estremamente diversi che hanno dei punti in comune. Quindi c'è il genere, massima generalità, però con comunque dei confini, e poi il singolo testo nella sua specificità. Ecco, a me hanno sempre affascinato dei tentativi di creare delle sorte di forme intermedie tra il genere e il singolo testo, e in qualche modo i prati costituiscono queste forme intermedie. Allora, dico forme. Forme, ma in realtà è particolare, perché nei prati la cosiddetta contrainte, per utilizzare un termine tecnico, cioè il vincolo formale, come nell'Ulipo si decideva, ad esempio, non so, penso a Perec, di mettere come contrainte di una composizione che poteva essere narrativa o poetica, di utilizzare esclusivamente le E, oppure di utilizzare paragrafi con un certo numero di lettere, e via dicendo. Ecco, nei prati c'è una contrainte, un vincolo, che però è un vincolo tematico, che è il vincolo tematico del fatto, in questo senso il prato è un perfetto pretesto, cioè che ad un certo punto deve apparire questo prato. Allora, il prato, perché tra l'altro la scelta del prato? Il termine francese, forse pelouse, è ancora più preciso da questo punto di vista. Il prato, tra l'altro lo ricordava ieri Gabriele Frasca, ma sono d'accordissimo su questa cosa, non esiste in natura, è un'entità puramente artificiale. Quindi, da un lato rinvia alla natura, addirittura delle fantasie quasi bucoliche, sapendo però, come del resto tutto il mondo bucolico, è una costruzione estremamente sofisticata, artificiale, eccetera. E in più il prato ha veramente a che fare con i margini, cioè si costituisce sempre attraverso una frontiera estremamente netta, o con appunto la città, come tra l'altro nel prato che leggevo, o con il bosco. Quindi il prato è una zona dentro cui far accadere delle cose. E la cosa interessante è che questo mi permette di portare dentro il prato tantissime cose. Cose che possono essere legate, e qui poi tocchiamo un aspetto che mi interessa, forse, che è quello della non assertività, delle cose che possono essere legate all'esperienza personale, quindi in una forma autobiografica che fa pensare, no, al paradigma lirico della poesia, ma anche invece elementi assolutamente eterogenei, che sono prelievi da lingue del mondo mediatico, del mondo specialistico, quindi lingue professionali, e di tutto ciò che in realtà è extra esperienza, extra io, extra autenticità, extra individualità. Quindi il prato dà la possibilità di far convergere questa quantità di elementi eterogenei e di giocarli liberamente. Sono d'accordo con la questione della non assertività. Che cosa significa? Significa che, per esempio, nell'ambito narrativo c'è, questo lo diceva tra l'altro Gianni Celati in un bel libro che si intitola Discorso sulla prosa. Lui parlava in modo particolare del romanzo, però possiamo estenderlo un po' all'idea di narratività. Lui diceva Il romanzo è questa camminata dove l'autore ti prende per mano, ti fa passare attraverso vari recessi e poi ti porta in un punto culminante dove hai finalmente una visione globale della vicenda e la significazione che emerge, no? Quindi l'idea che nonostante il zizzagare degli eventi raccontati, nonostante l'eterogeneità del linguaggio, ad un certo punto c'è un senso, qualcosa si compie, c'è una specie di premio finale che è la significazione, la morale della storia, la morale della favola, una perla di saggezza, eccetera. Ecco, nei prati tutto questo è messo in moto, anche nei prati c'è pretesa di costruire delle significazioni, di dire delle cose, eccetera, eccetera, ma in un meccanismo che può incepparsi in qualsiasi momento, deviare, contraddirsi, rimettersi in questione e quindi produrre da parte del lettore una sorta di costante incertezza su dove sto mettendo la mano, che tipo di significazione veramente il testo mi suggerisce, su cui posso veramente contare o meno. Ecco, questo mi sembra un po', per farla breve, la dimensione non assertiva dei prati. L'ultima cosa è che per me c'è un punto che non è neanche per me chiarissimo, e che nell'elaborazione che noi stessi abbiamo fatto, noi come gruppo, del un po' del significato della prosa in prosa, eccetera, eccetera, c'era un elemento estremamente forte, che poi è stato soprattutto un termine negativo, prosa in prosa, non lirica, non narrativa, non prosa d'arte, roba del genere. Allora, la cosa interessante è che per me il non narrativo sì e no, perché io mi rendo conto che in realtà il terreno della finzione, della microfinzione, del racconto breve o della prosa breve può benissimo, come tra l'altro ricordato da Marco citando quel prato dove c'è questo personaggio che cerca di salvare e poi non lo fa, il padre è ammalato, c'è la dimensione del racconto, la forma del racconto che comunque attraversa anche questi prati, che in alcuni casi fanno esplodere completamente questa forma, e in altri invece la sposano in modo un po' obliquo, un po' strano, e poi in altri libri io parto invece dalla forma racconto e molto spesso, tipo nel libro precedente a questo che si intitola Storia di un secolo ulteriore, già il termine storie, dove tutti i testi si presentano quasi come una forma narrativa, spesso però autodistruggendo tutta una serie di convenzioni e di elementi verosimili propri della narrativa. Quindi c'è questa specie di oscillazione che per me continua a essere interessante tra questi due versanti. Così come per esempio nel lavoro letterario di Andrea Raus c'è una costante oscillazione tra le forme più esplose e le forme poetiche invece quasi della classicità, della comunque sicuramente più liriche che non diciamo di ricerca e narrazione, addirittura diario, insomma, no? Anche un testo anticipato, poi pubblicato successivamente da Effige di Andrea Raus, elaborato nel corso di molti anni, si intitola Lettere Nere e si trova appunto all'interno del libro Prosa in Prosa. La cosa che è molto interessata in questo libro è anche il lavoro sugli explicit, cioè sulle conclusioni dei prati, che spesso, pur essendo i prati estremamente negativi, bui, diciamo quasi sottoposti a una serie di tarli che li corrodono dall'interno, anche dal punto di vista appunto delle conseguenzialità, delle narrative, per cui c'è un costante e velocissimo montaggio di scene che possono anche, diciamo, rendere disorientare il lettore. Ecco, nonostante questo, abbiamo visto per esempio in quello che è Il peggiore dei prati, l'ultima parola è polline, quindi è come se in questo nero, in questo scavare costante, in questa voragine che si produce, in questo cane che sta sulla soglia della morte in tanti sensi, anche allegoricamente, però si diciamo c'è questa parola che appunto come un seme si abbandona alla lettura dello sguardo del lettore in maniera quasi ingenua, però è un'ingenuità che forse proprio in virtù del lavoro fatto da tutto il resto del testo è possibile concedersi. Un altro testo ancora che io vedo concludersi a pagina 35, Il Prato 102, Collage e Stucchi, che si conclude con queste righe bellissime che dicono: praticello delle droghe belle, con un codazzo di dementi che non sanno comporre una frase di commiato e si intrappolano sempre più a vicenda, sempre più ridendo assieme. Ecco, è come una nave di folli che però sono felici di essere folli e che non riescono a mettere insieme una frase di commiato che è anche la frase della conclusiva del testo. In realtà poi questo libro è anche appunto una raccolta di materiali metatestuali, però non, diciamo, francamente e diciamo frontalmente esplicitati come tali, ma vanno semplicemente cercati questi frammenti che descrivono ciò che di fatto tutto il libro in fondo fa. C'è per esempio qualche esempio di questo genere, per esempio nel Prato 128, Vinile rullante gran cassa, che ho già citato, che è appunto quello dove compare il padre, eccetera, che inizia con questa figura di John Bonham e del suo assolo nel disco Led Zeppelin 2, che a un certo punto lascia filtrare frasi come partiamo dal soggetto. Ecco, un peso eccessivo, minaccioso e in definitiva assurdo, John Bonzo Bonham, che suona Moby Dick, dimostra che con questo lunghissimo assolo, dimostra che è possibile sprofondare in un atteggiamento autistico e rumoroso, sfidando accuse di pazzia senza per questo sacrificare un solido senso del ritmo e giovando infine al risultato d'insieme. In qualche maniera questa atteggiamento autistico e rumoroso, gremito, questa pagina anche lessicalmente, come ripeto, fittissima, di materiali, di personaggi, di oggetti, è però questa collezione e collazione di assoli che è Prati, in qualche maniera ci dimostra che il senso del tutto è strettamente tenuto presente dall'autore, senza per questo porsi lui come diciamo entità assertiva che propone il modo stesso attraverso il quale il libro debba essere letto. Lo fa, ma in questa maniera, in qualche maniera parentetica, obliqua, marginale, come appunto succede quando si cammina intorno a un prato, un'entità artificiale e in qualche maniera di passaggio da A. Non so se vuoi leggere ancora. Ah sì, non so cosa, quanto abbiamo fatto, quanto abbiamo chiacchierato per un'oretta circa. Ok, allora vi leggo un ultimo testo e poi io lasciamo la parola. Prato 236. Il prato è casa mia. Io nel prato mi ci trovo come all'inizio di tutto, come all'origine, in senso fetale, certo, avvolto in benefici costanti e completi che rendono i sogni un declivio dolce e ininterrotto verso qualche luminoso piano di raccolta degli esseri e delle cose, quasi che il moto esistesse come una carezza, destinata a lentamente spegnersi, comporsi in pose immobili e definitive. Ma l'origine è anche più abissale quando uno ci presta attenzione. Ai milioni di anni alle spalle, fin giù nel brodo primordiale, nel sugo batterico, dove si abbeverano le vite nascenti grazie agli agglutinamenti di cellule, una prima squama, poi un sifone digerente, una pinna là, una placca ossea qui, l'occhio che sbuzza fuori, il canino trionfante, i musi tagliati a mezzo che si spalancano, le prime respirazioni e i goffi ingurgitamenti. Per cui mi sento come un osservatore di girini, con le caviglie affondate nell'acqua verdastra e un retino a maglie fitte a spiare il fremito della superficie mobile e riflettente ad attendere alla lenta maturazione di una popolazione di rane. Ma forse tutto ciò è esagerato, forse strafaccio con questa tipica attrazione dinastica per le filiazioni remotissime, i manieri in alto locati con dongione e bandiera baronale, le piramidi a gradoni, la porta di Istar con effigiato l'animale sacro di Marduk e gli antenati solenni e ben calzati, i nipoti di Noè e i figli di Yafet, quel Magog e quel Tubal soprattutto, dalla grande fame di cervi e giovinette, senza parlare di Toante, condottiero degli Etoli, con le sue 40 navi nere traboccanti di scudi argivi e le lance in frassino, e tutta questa pasta umana, questo capitale antico, crudo e raffinato a un tempo, arcaico e sofisticato, che mi ha scolpito nervo dopo nervo, tale quale sono oggi. Ma in definitiva qui sto bene, nel mio apparente anonimato. Mi sento a casa, abito come si deve il mondo, tutto mi raggiunge con spontaneità, ma anche cautela in questo prato, che deve essere per forza il mio, con un recinto da qualche parte. In questa zona verde, piena di sorpresine botaniche, le cose si curano di me e forse anche i rari esseri umani che vi mettono piede. Qualcuno, infatti, deve finire per metterci piede, a meno di essere io una sorta di Robinson Crusoe o San Girolamo in giro per grotte, ma è sbagliato attribuirmi una scarsa socialità. Non è perché ho piantato una staccionata di legno solido, noce se non erro, con punte aguzze, che concepisco la proprietà privata in modo sospettoso e difensivo. Non vi è persona più accogliente di me, purché si rispetti lo spirito del luogo, l'atmosfera domenicale ma assorta che si respira, il candore dei movimenti, come ignudi di malizia o interesse freddo. In un prato come il mio non serve il denaro, ma nemmeno c'è bisogno di gerare con un coltello o una beretta da tasca, nonostante sia sinonimo di qualità dal 1526. Portare colpi, cercare di ferire o ammazzare persino, non è certo la prima cosa che mi viene in mente se qualcuno, anche calzando scarpe, emerge da qualche angolo del prato. Può essere magari una donna, e una di quelle donne che amano esibire il proprio ombelico. Può essere una persona di costumi e usi poco occidentali, che lo stesso etnografo decifra con difficoltà nella sua massa disordinata di appunti. Può essere certo un mascalzone, o peggio, qualche astuto venditore di piani telefonici. In un prato come il mio, dove serenamente mi sento a posto da capo a piedi, mondo di ogni colpa, sollevato dalle più inevitabili responsabilità, fiero della mia respirazione lungimirante, non sarà certo in tali condizioni che io mi faccio prendere dal panico e trascinare magari in una discussione aspra, piena di sotterfugi verbali e di giustificazioni non richieste. A me basta avanzare con i piedi nudi, le mani che oscillano lungo i fianchi, al limite degli avambracci, rilassato dentro e fuori, lo sguardo fermo ma non insistente, il forcone a tracolla e una sciabola da ufficiale sabaudo, autentica, che mi pende alla vita nella sua guaina originale di cuoio. È una sciabola da cerimonia, di quelle che non si usano in combattimento, quindi è evidente che in me le armi, soprattutto quelle antiche o folcloriche, rispondono a un'esigenza estetica di forme che incantano lo spirito. Ma è comunque un ragionevole riflesso quello mio, quello che mi fa portare la mano alla cinta, quando vedo avanzare una sagoma camminante, anzi un figuro, per via di certi tratti maschili come la barba e gli stivalacci luridi, che mai damigella o gentildonna indosserebbero. L'andatura potrebbe ricordare quella di mio padre, quando è completamente sbronzo di nocino, ma la corporatura sottile, il volto emaciato, ricordano piuttosto la persona viziosa di mio figlio, incapace di porre un freno nel bel mezzo dell'adolescenza agli acerbi piaceri dell'autoerotismo. In entrambi i casi devo mostrarmi fermo e degno, figlio o padre di carattere, uomo che non teme di fronteggiare altro uomo, anche se l'amore filiale o paterno rischiano di rammollirlo. Sono sicuro che l'uno o l'altro, a seconda della loro identità effettiva, vengono verso di me con richieste. La chiave della cantina nel caso di mio padre, la mia collezione di DVD porno giapponesi nel caso di mio figlio. Io sono magnanimo nei legami di sangue, amo la cura, gli affetti che non costano, le parole dolci e incoraggianti, spese anche una volta al giorno, tanto tutto quanto crea, insomma, un'atmosfera cool nel salotto di casa, quando ci si trova uniti da un'attrazione intergenerazionale di clan. Ma il mio prato è come la mia anima, un prolungamento della mia fisionomia interiore, dei miei talenti, forgiati, come ho ricordato, da migliaia di puntuali trasmissioni genetiche tra gente di una certa grandezza morale e patrimoniale. Non so se mi capite. E quindi la svogliatezza, la noncuranza, il malanimo, l'inconcludenza, il portamento rozzo e ottuso, il traballamento delle membra, le mani sempre nelle mutande, la sciatteria, lo schiacciamento dei miei amatissimi steli sotto la suola infangata di stivali mai spazzolati e lustrati, questo è tutto quanto non sopporto, tutto quanto contrario ai miei più radicati valori, e mi fa saltare i nervi, mi spinge ben oltre i limiti della creanza. Se quindi ho sguainato la sciabola, arma in teoria puramente simbolica, di parata, e comincio a rotearla nell'aria con furia, è perché di un padre alcolizzato e di un figlio lussurioso forse non ho più bisogno. E se quello che mi viene incontro è soltanto Bastiano, l'innocente giardiniere, è ormai troppo tardi per riconsiderare le mie ragioni. Una testa cadrà oggi sulla morbidezza vegetale tanto insultata e ignorata, e non sarà la mia. Al popolo, chi vuole intervenire, domandare, è pregato di farlo ora o di tacere per sempre. Come no? Il microfono non arriva fino a lì. Ok, ti sentiamo. Prima hai fatto un cenno all'aspetto politico di questa operazione. Però c'è stata descritta anche molto bene a dettaglio, c'è stata esemplificata anche dalla lettura. Però vorrei qualche elemento in più di riflessione sulla natura politica di tutta l'operazione Prosa in Prosa e poi in particolare dei prati. Grazie. Tu io? Io, allora, dico solo che... Brava Gilda che vai a mettere un po' il dito nella piaga. Dico dito nella piaga perché? Perché noi, e parlo mettendo tanta gente in questo noi, e non solo gente legata alla Prosa in Prosa o comunque alle scritture di ricerca, quello che volete voi, ma è vero che c'è una grossa tendenza. Negli anni 90 mi ricordo che i poeti, tra virgolette, più lirici amavano dire sì, la nostra scrittura è un gesto etico. Allora c'era la roba dell'etica, si scrive ed è un gesto etico. Noi abbiamo un po' la facilità a dire che quello che scriviamo è politico, no? Soprattutto non in termini del vecchio engagement novecentesco. Quindi non si capisce bene che cosa vuole dire. Io alla fine mi sono fatto un'idea rispetto ai prati, e poi lascio la parola a Marco perché è un tema che interessa molto anche lui e non solo lui qui. Diciamo che per me la politica è che cos'è politica in questa faccenda? Nell'idea, se vogliamo, più tradizionale di letteratura, l'autore, che sia poeta, che sia il narratore, eccetera, eccetera, in qualche modo pone di fronte al lettore una rappresentazione di quello che dovrebbe essere la realtà, dicendo: guarda come io sono bravo, forte, capace di farti vedere attraverso la mia scrittura la realtà. Okay? Ora, per me la dimensione politica è quella di dire: io faccio questo esercizio di rappresentare, di figurare, di narrare, di scrivere versi, eccetera, però voglio costantemente dirti che la realtà è incompiuta, che la realtà è inesauribile, che la realtà non riusciamo a prenderla, a governarla completamente, che addirittura a volte, quando tentiamo di significarla troppo rapidamente, facciamo il lavoro di una certa ideologia che spesso impoverisce il nostro sguardo sul mondo e quindi ci rende anche più, come dire, facile presa di discorsi ideologici che circolano nel tempo presente. Ecco, per me, riassumendo, uno degli elementi politici più legati proprio alla forma, quindi non tanto ai contenuti veicolati, è questa cosa qua. Sicuramente, vai. Chiaramente il discorso del linguaggio è centrale, l'abbiamo detto forse in più di un'occasione, e un po' anche sottinteso in questi interventi che abbiamo fatto. E io penso ad esempio, rimanendo all'ambito del libro Prosa in Prosa, al lavoro di Alessandro Broggi sul cliché, sul linguaggio pubblicitario, sul linguaggio delle scritture, diciamo così, mainstream degli anni 80 e 90, e soprattutto alle sue prime opere. Qui da Tic trovate Sì e Noi, che sono i suoi libri, terz'ultimo e penultimo. Però sicuramente c'è molto da dire anche su questi libri, buona parte per esempio di quei testi che lui ha raccolto sotto il titolo di Avventure Minime, o quegli altri che fanno parte di una plaquette che si intitolava Coffee Table Book, che uscì per Transeuropa, danno proprio di questa idea del linguaggio, della letteratura come del luogo, in qualche maniera, della pacificazione con il linguaggio del coffee table book, cioè dell'oggetto in qualche maniera di moda che sta sul tavolino della feltrinella di zona. Ecco, di questo linguaggio una raffigurazione così patentemente iperrealistica da spingerla verso una inevitabile critica da parte del lettore. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. Chiaramente è un elemento piuttosto raffinato di critica, di, diciamo così, di diversa frontalità, di un'idea di politica all'interno della letteratura. Però sicuramente ci sono anche, ci sono state delle premesse perché questo tipo di scrittura avesse a dire qualcosa in quegli anni in cui è nata. Cioè gli anni, per esempio, prima del primo mandato di Trump, quindi prima del 2016, ma gli anni anche prima delle crisi economiche del 2007-2008. In un libro recente, Guido Mazzoni parla di un periodo in cui, almeno l'Occidente, chiaramente non parliamo per tutto il mondo, non abbiamo assolutamente il diritto di parlare per tutto il mondo, però l'Occidente si sentiva in qualche maniera al riparo da una certa serie di disastri che poi vediamo oggi essere quasi a un punto di picco, e forse un picco che è destinato ancora a crescere, e da un certo momento in avanti questo riparo è venuto nella percezione dell'occidentale almeno a smussarsi. Ecco, io ho idea che una parte della critica ai linguaggi di quell'Occidente sia stato svolto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 da un movimento che si chiamava FLARF negli Stati Uniti, che giocava in maniera spudorata con i linguaggi della contemporaneità, soprattutto all'interno di internet e attraverso quel modo di scrivere che si chiama Googleism, cioè praticamente l'idea di mettere nel motore di ricerca più famoso al mondo una serie di parole contrastanti tra loro e fare testualità, fare poesia attraverso i materiali che ne uscivano. Ecco, e in questo modo, criticando in maniera frontale violentissima, per esempio, e faccio il caso di un autore che del Googleism è un po' uno dei portabandiere, che si Xilem Mohammed, facendo una critica violentissima, per esempio, al contesto repubblicano degli Stati Uniti all'abbrivio tra la fine e l'inizio, tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo. E quindi c'è stato un certo tipo di lavoro in questo senso. Io personalmente, ma qui parlo proprio a titolo assolutamente personale, ne parlavamo prima anche con Andrea, credo che questo senza riparo in cui man mano con sempre maggiore coscienza ci troviamo da ormai più di 10 anni a questa parte, ecco, e soprattutto adesso, durante Auschwitz, cioè durante il genocidio di Gaza, non dopo, come è nella celebre espressione di Adorno, ecco, è veramente estremamente difficile anche solo interrogarsi sul fare scrittura e scrittura di ricerca. Questa è una cosa che personalmente sento e dico. Non so gli altri come appunto affrontano questa vicenda. Certo, sicuramente il linguaggio chiede sempre comunque di essere sfidato, e probabilmente ci saranno altri modi anche attraverso questi strumenti che questi ultimi 10-15 anni di sperimentazione letteraria ci hanno dato per affrontare qualcosa. Quello che io personalmente però sento abbastanza difficile è questo quasi interminabile durante, che mi rende personalmente a me molto più facile muovermi in senso di informazione, giornalismo, diffusione di notizie. Chiunque più o meno mi segue sa quanto tormento le persone con informazioni di carattere politico, piuttosto che su un fronte, diciamo così, di ricerca letteraria. Adesso magari ho inclinato più verso il fatto personale, individuale, però è stato un tentativo di risposta a una cosa che credo continuerà a interrogarci. Sì, sì, diciamo che quello di cui tu sta parlando credo che sia anche un po' diverso, anche se le due cose sono connesse rispetto alla domanda di Gilda, cioè il fatto che io penso sempre un po' a quello che diceva Orwell, che non amava gli scrittori al servizio della politica, però diceva ci sono casi nella storia in cui uno scrittore deve smettere di fare lo scrittore e deve fare politica. Ecco, mi sembra che quello che dice Marco sia questo, cioè ci sono ad un certo punto situazioni tali che ci distolgono proprio dai tempi lunghi della forma, dalle strategie di lunga durata della forma, perché ci sono delle urgenze che passano davanti a tutto, e quindi un tipo di scrittura diversa, di intervento, forme di condivisione di informazioni, tutto quello che una volta si chiamava controinformazione, eccetera, e letture che sono diverse da quelle che uno vorrebbe fare, no? Di tipo letterario, andarsi a rileggere, che so io, un autore medievale, eccetera, quando invece ci sono cose da leggere sulla, che so io, storia del Medio Oriente che non si sono ancora lette, che sono molto importanti. Ecco. Siamo in ascolto di altri interventi, se ci sono. Forse i politici dovrebbero fare gli scrittori. Abbiamo degli esempi pericolosi in questo senso e tremiamo alla proposta. Bondi, io lo si chiamava Bondi, quello che scriveva le poesie. Sì, c'era un poeta. Bondi. Provo a dire una cosa io, con grande paura, perché sono arrivato quando avete cominciato da poco a parlare. Ho pensato fin dall'inizio della parte di presentazione che ho ascoltato al Prato e ai riferimenti fortemente culturali che un'immagine del genere ha nella storia della poesia, l'Antoscoblusus, la poesia andalusa, tutto quello che sappiamo. E quindi ti ringrazio molto per quel momento in cui hai specificato che è una Pelouse, cioè che è il prato inteso come una costruzione culturale. E, però volevo chiederti questo, poi sei passato a parlare della contrainte dell'Oulipo, insomma della regola che sovrintende alla scrittura letteraria nel caso dell'Oulipo, alla tua operazione nel caso dei prati. E mi sembra che nella realtà i prati sono dei luoghi fortemente culturali, non solo perché sono destinati a farci dei picnic, ma perché sono investiti da una serie di proibizioni. Il prato è il luogo che non bisogna calpestare, il prato è l'area di rispetto dell'elettrodotto, il prato è quello decorativo davanti all'albergo dove però non ci si può fermare, e via dicendo. Allora mi chiedevo, nei prati come tu li intendi, si può fare tutto? È una specie di opening of the field alla Duncan, tranne per quella costrizione per cui deve comparire un prato a un certo punto, oppure ci sono delle cose che tu non vuoi che nel prato avvengano, trovino rappresentazione, trovino esistenza? E questo potrebbe anche essere declinato in senso politico. Sì, forse non c'è bisogno, ma no, io così subito ti risponderei no, il prato tutto può succedere, il contrario di tutto, e però è interessante il fatto che ci siano dentro questi prati, come dire, tipo l'ultimo che ho letto, dove ci sono proprio le spinte, no? Una specie di figurazione trionfale dello spirito reazionario, no? Quindi quello che veramente porta tutte le regole, il prato come proprio mia proprietà, eccetera, come invece quel passo che leggeva Marco sul prato come elemento quasi di disgregazione liberatoria, no? Si arriva al prato. Quindi, no, ma in effetti però questa è una cosa che a me interessa, cioè prendere un elemento figurativo come il prato, con tutti gli strati che ci sono dentro, e sempre giocarlo nella sua ambiguità. Quindi sia mantenendo la dimensione utopica dell'orto sconcluso, del paradiso, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo sapendo che questa figurazione ha veicolato poi anche forme, no, reazionarie, conservatrici, che sappiamo lo stesso, quello che Zanzotto chiamava l'Arcadia horror, no? O l'Arcadia mafia. No, quindi il paradiso è un recinto, etimologicamente. Esatto, no, esatto, no? Che quindi è un recinto nel senso che pensiamolo come uno spazio in cui noi salvaguardiamo forme di umanità, per esempio dal capitalismo, ma nello stesso tempo il recinto è anche quello della proprietà dove tengo fuori gli altri. Quindi a me interessa sempre questa, no, duplicità un po' irriducibile di queste figure culturali forti. E poi dentro mi interessa farci in realtà passare tutto e il contrario di tutto, in un certo senso. Timidamente accenno qualcosa. Intanto grazie. Quindi grazie a Luciana per aver invitato a venire alla presentazione. È stata una grande sorpresa perché io non ho mai letto nulla di questo mondo. Benvenuta allora. Leggerai, grazie. Leggerò e rileggerò anche questo. Ho pensato a questo prato quasi in un primo ascolto come un recinto quasi claustrofobico, e quindi mi ha assalito un po' questa sensazione, questa percezione. Però poi piano piano ho pensato, ma può essere anche un diaframma questo prato che sta tra il bosco, la città e tutto quello che è il magma della vita, di ciò che non vorremmo, di ciò che invece ci investe. E mi chiedevo, ma lei in quanto tempo ha scritto questo, mentre questa catastrofe che descrive bene Darwish, nonostante non l'abbia scritto Lucy. In quanto tempo lo ha fatto? E ha mantenuto una forma... No, questo è tutto prima che... Una? Una forma impeccabile, noto. Questo è anche il lavoro sulla grafica che io apprezzo particolarmente di Michele Zaffarano. No, questo libro è stato scritto nel corso di vari anni, però tutto prima del 7 ottobre, e come dicevo io, con questa strana possibilità di riprendere questo progetto anche dopo 2 anni che non avevo mai scritto nulla su questi prati, di rimetterlo in moto e quindi di scrivere nuove cose. Io concluderei leggendo solo i corsivi del Prato 111, perché così voi invece andate a leggere tutto il resto. E... Tutto deve scomparire e sono morti mentre stavano pregando. Insopportabile Paul Newman appare tutto il tempo con lo stesso completo grigio e cade dal balcone con la Bibbia in mano. Ancora piccole meduse nella vasca e perde la testa durante la processione. Alpigiano parla con accento preistorico e annega per recuperare la catenina col crocifisso. Allora, chi non percepisce in questi titoli di giornale, probabilmente, o falsi titoli di giornale, una falsissimi fake news inglesiane, una prossimità a un altro autore che ci piace nominare stasera, Corrado Costa, ha qualche problema. Quindi leggete Andrea Inglese, ma anche Corrado Costa. Allora, Prati, Extended Version, grazie a Emanuele Crausar che ci ha ospitato, grazie a Michele Zaffarano che ha curato il libro da collana, grazie a Andrea Inglese e grazie a Marco Giovenale.